Fulminati in azienda. Marco, scusa, devo parlarti, abbiamo un problema enorme. No, ce l'ho io il problema enorme. I venditori non vendono e quindi siamo sotto al budget del 25%. Sì, ma il mio problema è irrisolvibile. Ascolta, schedula, se non sei parte della soluzione sei parte del problema. Allora, qual è questo problemone? Abbiamo un totale di 1235 giorni di ferie arretrate. Tu 135, io 67, centrifuga 348. Che sommate agli straordinari sono soldi, molti soldi. Uè, cosa hanno sentito le mie orecchie? Soldi che escono? Vorrei sapere che cosa ci avete in testa voi delle risorse umane. Le ferie vanno fatte perché sennò i costi del personale mi lievitano. No, veramente sei stato tu, Marco, a bloccare le ferie di tutto il management. Ti ricordi lo slogan zero ferie, zero sprechi? È cosa c'entra? Quella roba lì è il passato. Adesso concentriamoci sul presente, sulla soluzione. Le ferie vanno recuperate. Per esempio, obbliga centrifuga da oggi a restare a casa qualche giorno. No, ma come facciamo senza centri? È il perno lui dell'azienda. Tu dagli le ferie, che lui vada pure dove vuole, purché si porti il lavoro dietro. Uè, mai sentito parlare di telelavoro? Sono emozionato, non vado in ferie da 5-6 anni, 7-8, non ricordo manco più. L'ultima volta sono andato 2 giorni alla Dispoli da mi suocera e sono dovuto rientrare di urgenza per preparare un documento strategico. La se sarà assentato in un momento delicato. Ma sera il 13 agosto, sì. Ecco, comunque centri, approfitta per riposarti. Ecco, l'unica cosa è che dovresti dedicare qualche spazio delle tue giornate tra un bagno e l'altro, così, insomma, velocemente, per vedere le mail, controllare le vendite, scrivere il piano del secondo semestre, poi c'è. Sì, vabbè, poi che altro, ho capito. E che vacanza è? Mi tocca lavora più di prima. Ma no, noi abbiamo avuto un'idea straordinaria, vedi, viene con te Pacco, così ti può aiutare mentre tu te la godi. Che bel, vado in vacanza anche me. Gagliarda idea, mi piace, mi pare anche una coppia che può funzionare. A Pacco, nama fa sfacelli, da giovane quando andavo in vacanza da scapolo mi chiamavano Er Timbra. La timbrava le cartoline? Sì. Ma che timbrava cartoline, Pacco? Er Timbra, poi te lo spiego, no, che timbravo. Ragazzi, piuttosto dove pensate di andare? A me non ho mai visto Jesolo, sono sempre andato in vacanza sulle Alpi Carniche. Ah, Pacco, che tristezza la tua vita, c'ho io un'idea. Namo a Cuba. Centri, vieni o no? Uè, ma quant'è che sei lento? Sei peggio di un caterpillar. Dai, vieni qui che ti devo rifilare un lavoro. Marco, è inutile che chiami, ma non ricordi che Centri è andato in ferie? Come è andato in ferie? Uè, certo. Ma siamo impazziti, ma in questi giorni qui che chiudiamo il semestre. Ma chi è che gli ha dato il permesso di andare in ferie? Ma tu, Marco, gli hai dato il permesso. Ma a proposito, anche io ho pianificato un po' di ferie. Sai, una Roma fan, un tour tra i sentieri del wellness in Cina, Cambogia, Thailandia. Un paio di mesi, uè, pensavo. Uè, Estremo Oriente, NCS non ci siamo. Uno da un dito gli prendono tutto il braccio. Adesso tutti che volete andare in ferie. Ma io ho 458 giorni di ferie arretrate. Marco, una tragedia, è gravissimo. Marco, cosa c'è, schedula? Che cosa c'è? È scoppiato il vulcano islandese. E allora? Ancora? Sì, e la nube era proprio sulla traiettoria dell'aereo di Centri, capito? Oh mio Dio, c'è finito dentro, no. In tutto quel grigio. No, povero Centri. Ma no, sono atterrati precauzionalmente in Groenlandia, però. Groenlandia? Ma si sarà solo portato dei costumi, delle magliette, magari una paglietta per il sole. Ma come faranno, poverini? Moriranno di freddo. Ma quale poverini? Ma chi se ne frega? Uè, Cuba o Groenlandia? L'importante è che si procurino un igloo con antenna satellitare per portare avanti il telelavoro. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.